Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunta in regia. Mentre il Liverpool dimostra come si fa, naturalmente, a vincere Old Trafford, oggi 4-1 per i Reds che riaprono il campionato inglese, segna anche il nostro Dossena, finalmente un gol italiano su quel campo. Mentre il Liverpool dimostra come si fa, noi ci prepariamo a vivere, poi più tardi ne parleremo sentendo tutte le voci del caso, a vivere una prima giornata del dopo doccia inglese che si annuncia ad alta tensione. Ieri il pubblico regolamento di conti, come sapete, avrete sentito e poi ve lo facciamo risentire, tra Ranieri e Trezeguet. Oggi confronto di stanza tra Mourinho e Ancelotti, con Mourinho che non ha graditi i commenti del collega milanista sul falso percorso dell'Inter in Coppa, e ha detto: gli allenatori possono perdere qualunque cosa, ma non la dignità professionale. Ancelotti ha risposto: si occupi dei fatti suoi, non parli più del Milan. Poi facciamo sentire anche tutto questo. Risultati di B in divenire: Bari 2, Avellino 0, Livorno 1, Cittadella 0, Mantova 1, Sassuolo 0, 0-0 tra Modena Ancona, Rimini Frosinone, Salernitana Grosseto. Il Pisa vince 1-0 a Treviso, il Brescia 2-1 a Trieste, l'Albino Leffe 1-0 a Vicenza. Mentre accade tutto questo, al Flaminio trovi l'Italia del rugby che non ti aspetti. Peroni illumina la tua voglia di rugby. Vi presenta Palla Ovale. Allora, noi al Flaminio ci andiamo subito da Giacomo Bagnasco per l'Italia del rugby che non ti aspetti, almeno fin qui. Giacomo. No, così un'Italia non era possibile aspettarla, forse non era possibile neanche aspettarsi questo Galles un po' più incisivo del solito. Fatto sta che al decimo minuto della ripresa gli azzurri sono in vantaggio 9-7, e questo è anche il risultato con cui si è concluso il primo tempo. Un'Italia sicuramente superiore rispetto alle versioni azzurre anacquate dei primi tre incontri, un'Italia che ha provato a giocare, che ha saputo impostare qualche break, non è andata male né a seguire, ha avuto una buona conquista della palla e una decisa supremazia territoriale. Molto bene la difesa in pressione, molto meglio del solito rispetto alle ultime partite la squadra nelle fasi statiche, vale a dire in mischia chiusa e nelle touche. Quindi un primo tempo che è stato sicuramente il migliore degli di questo torneo, sicuramente migliore anche di quello con l'Irlanda. Da Galles, numerosi errori, poca decisione, segni di nervosismo anche da parte dello staff tecnico dei Dragoni, che è sotto alla postazione. Molto meglio del solito gli azzurri, anche se l'unica mente è stata segnata dal Galles. Per l'Italia, tre calci piazzati di marcato al quinto, al trentesimo, al trentacinquesimo, marcato 3-3 nei calci. Per i gallesi una meta al 27esimo di Shane Williams, un attacco profondo di Charteris sul vantaggio accordato dall'arbitro. I gallesi hanno continuato a giocare, sono riusciti ad assorbire i difensori italiani con una serie di attacchi, di tentativi di sfondamento, e poi quando hanno avuto il soprannumero sono andati al largo. Facile il passaggio di Henson, è facile la meta di Williams. Per l'Italia un episodio su tutti: al 38esimo l'arbitro Lewis ha dovuto fare ricorso al television match officer su un calcio a seguire degli azzurri, ha un po' pasticciato Mark Jones con Shane Williams, è riuscito in un primo momento a difendere la palla da Rubini, e poi quando il pallone era in area di meta ha preceduto per pochissimo Zanni. Si è salvato il Galles in questa circostanza, ripeto, ma è un Galles abbastanza confuso che anche in questo momento concede un calcio piazzato agli azzurri, che in questo momento e che in questo modo risolvono una situazione difensiva. Italia sicuramente all'altezza della situazione, Italia che proprio adesso ha eseguito alcuni cambi e sono entrati Castro Giovanni per Nieto e Del Fava per Della Pini, forze nuove in mischia. Va detto, Giacomo, che è un'Italia che ha progressivamente preso fiducia, adesso sta combattendo, adesso è un'Italia che ci crede, perché dopo tante partite storte, dopo una sfiducia serpeggiante, questo primo tempo ha rinfrancato gli azzurri, che stanno giocando secondo me anche meglio in questo inizio di ripresa. Va detto che il vantaggio nostro 9-7, ripeto, siamo al 53esimo di questa partita, poteva anche essere più largo, perché tu citavi quell'episodio alla fine del primo tempo con il ricorso all'uomo della TV. L'Italia è stata in pressione comunque negli ultimi minuti con il Galles, e proprio allo scadere un drop fallito da Marcato, se no potevamo condurre con un punteggio ancora più largo. Sì, sicuramente, e soprattutto la cosa più confortante è che l'Italia ha iniziato il secondo tempo, come dicevi Carlo, forse andando anche meglio che nel primo. Mezz'ora, sicuramente il Galles è la formazione che conosciamo, pericolosissima, in grado di cambiare marcia da un momento all'altro, ma intanto ecco gli azzurri che sono praticamente sulla linea di meta dei gallesi, che riescono a liberarsi con Phillips, che è riuscito a riprendere il pallone in mano, pallone a terra, ancora Italia pericolosa. Parliamo di questo Galles che può sempre piazzare la zampata, ma questo è naturale, un Galles che ha cambiato 9 quindicesimi rispetto alla partita persa con la Francia, che forse poteva pensare anche di avere vita più facile, però non possiamo parlare a questi livelli di rincalzi o di riserve. In ogni caso, bella Italia, Parisse qui presente, una discreta lucidità nei calci di spostamento. Certo, mi sembra Giacomo, poi ne parliamo con calma, adesso siamo quasi al momento del traffico, anzi facciamo così, traffico e poi introduciamo un'altra considerazione, perché mi sembra un'Italia che, so quanto sia colpa della difesa gallese piuttosto blanda, però mi sembra un'Italia che gioca meglio anche con la palla in mano, e questo è il nostro grande problema. 9-7 per noi, 55esimo di gioco, 9 per l'Italia, 7 per il Galles. Giacomo Bagnasco, sei d'accordo? Un'Italia che anche in possesso di palla è sembrata più sicura, più precisa, più affidabile. Sì, sicuramente quantomeno più incisiva, è riuscita a guadagnare dei metri, a fare dei break, no? Si sono viste manovre collettive di altissimo livello, però ma neanche quegli errori da scuola rugby che avevamo visto in altre partite, errori, sì, di trattamento del pallone. Ed ecco ancora gli azzurri, adesso con Parisse che purtroppo perde il pallone in avanti, si stava creando una situazione veramente interessante a largo sulla fascia sinistra. Il Galles si è difeso e si è salvato, ma sicuramente sta andando incontro a un pomeriggio molto più duro di quello che poteva attendersi. Adesso c'è Shane Williams che viene placcato dal duo di centri Bergamasco Canale, poi tiene il pallone a terra, cosa che non poteva fare sul placcaggio. C'è un calcio di punizione per gli azzurri da posizione non facile. Nel corso del primo tempo c'è stato un calcio che gli azzurri hanno preferito mandare in touche su indicazione di Parisse, potevano essere altri 6 punti per Marcato, e poi dalla rimessa laterale non è scaturito nulla. Dicevi Carlo di una squadra anche più propensa a giocare alla mano, che ha commesso meno errori, questo è vero. C'è stato un errore in particolare, questo sì da segnalare, nel primo tempo, in avanti di Bortolami su un'azione che poteva portare a buoni sviluppi. Comunque possiamo dire che senz'altro l'Italia merita questo vantaggio, possiamo testimoniare del nervosismo sia dello staff tecnico sia anche di qualche giocatore gallese. Il capitano Alun Wyn-Jones è andato adesso a chiedere qualche spiegazione all'arbitro irlandese Lewis, e intanto c'è Marcato che si prepara. Allora, seguiamo in diretta questo nuovo calcio piazzato. Seguiamo in diretta questo piazzato di Marcato. Giacomo. Sì, sul tenuto di Shane Williams c'è il calcio di Marcato da posizione non facile, abbastanza decentrato, sono circa 45 metri dai pali. Parte il calcio di Marcato, sembra ben indirizzato ed è sì, è così. 3 punti per Marcato, che non rovina la sua media, 4 su 4 calci, Italia che si porta a più 5, Italia 12, Galles 7, e Galles corre ai ripari con numerosi cambi. Siamo al 58esimo. Credo che ci siano addirittura 4 cambi. E il Galles prova a cambiare faccia, perché quella vista fin qui non è convincente. È chiaro che non si può parlare, sarebbe stupido parlare di un Galles B, perché quando hai giocatori come Gavin Hanson, come Shane Williams, come tutti questi, insomma, sono giocatori di talento assoluto e di livello assoluto. 12-7 per l'Italia, 58esimo di gioco, e continuiamo a sognare. Continueremo a farlo in diretta con Giacomo Bagnasco, che naturalmente resta collegato con noi, perché Questo Italia-Galles è più che mai il filo conduttore di questo programma, in cui però vi parleremo anche d'altro, perché abbiamo diverse cose da raccontarvi e da farvi sentire. Vi invito anche a 800 24 00 24, questo il numero verde, messaggi al 349 238 6666. Ripeto, Italia 12 Galles 7, 59esimo di gioco, Giacomo Bagnasco dal Flaminio collegato. Però voglio parlare anche di sci, perché c'è il gran finale della Adore in Svezia, gran finale della stagione. Oggi è arrivato un altro podio, ma soprattutto abbiamo passato, a proposito di sogni, una mattina magari ancora insieme al caffè. C'è stato un sogno, che è stato quello di che Mölg e Razzone hanno provato a costruire, poi il sogno è svanito, perché alla fine della prima manche dell'ultimo slalom stagionale avevamo la doppietta, poi è andato un po' diversamente. Dario Pupo, buongiorno. Ciao Carlo, saluto a tutti. È vero, in effetti c'erano due belle speranze questa mattina dopo la prima manche, con Mölg e Razzone che erano in testa, però è cambiato qualcosa nella neve poi nella seconda manche. Quello ha chiaramente inciso molto. Alla fine ha vinto Matt, che aveva vinto su quella neve, su quella pista, il mondiale nel 2007, e l'Italia è rimasta con il quarto posto di Mölg. Alla fine, tutto sommato, insomma, l'importante è esserci, questo è già positivo. Per quanto riguarda invece il discorso in generale, a proposito di classifica assoluta, beh, insomma, c'è stata la sorpresa, perché Raik sembrava che avesse ormai alla portata la sua seconda Coppa Generale, invece la seconda Coppa Generale è andata a Swindel, che nonostante la febbre in questi giorni è riuscito a fare qualcosa di miracoloso, perché era arrivato secondo dietro a El nel Super G, ed è lì che ha vinto probabilmente la sua classifica generale, quando insomma si è svegliato di notte con 39 di febbre. È veramente indistruttibile, insomma, gliene succedono di tutti i colori, però Swindel dimostra che nei prossimi anni potrà diventare forse uno dei più grandi dello sci. E tra l'altro la Norvegia al maschile potrebbe vincere la generale anche con Northug e con Bjørndalen, per cui insomma in questo momento è il paese guida in qualche modo. Sì, il paese guida forse raccoglie il testimone dell'Austria. Intanto il Galles accorcia sull'Italia con un piazzato di James Hook, siamo 12-10 per noi, siamo al 61esimo di gioco, poi torniamo per un altro flash al Flaminio, ma chiudiamo il discorso sullo sci, perché comunque un podio è arrivato, non da Manfred Mölg, quarto alla fine, Razzoli fuori nella seconda manche, però un podio lo rastrelliamo, il terzo posto di Manuela Mölg nel gigante femminile, Dario. Esattamente, ben augurante, insomma, ha vinto Tina Manz davanti alla Putiainen, che ha vinto la Coppa di Gigante, però Manuela insomma meritava qualcosa prima che la stagione chiudesse, perché ricordiamo che è stata in testa dopo la prima manche ai mondiali, poi ci fu quella grande delusione. Per cui è giusto così, insomma, se l'è meritato. Peccato per Denise Carbon, che però ha avuto svariati problemi in questa stagione, non soltanto fisici. Sì. Io credo che adesso primavera-estate aggiusterà qualcosa, e per la prossima stagione, magari senza vincere così tanto come ha fatto lo scorso inverno, però tornerà a essere molto competitiva. Poi ricordiamo soltanto, per chiudere, che Grange ha vinto invece la Coppa di Slalom, che gli era stata soffiata da Manfred Mölg la scorsa stagione, grazie a un podio. E direi che molto altro non c'è più da aggiungere. Domani ci sarà il team event, però conta veramente poco, insomma. Certo, non raccogliamo nessuna coppa di specialità, Dario, però in questa stagione i bilanci poi li facciamo con calma, però intanto si può dire che una bella collezione di podi l'abbiamo fatta, insomma. Soprattutto le vittorie nella velocità, perché c'è stata la prima vittoria in carriera per Nadia Fanchini, che ha lottato per la Coppa di Super G, poi i due successi in Super G di Hell, i tre con tre uomini diversi nella discesa, poi c'è stata la doppiata di Garmisch nello slalom. È mancato il gigante, come abbiamo già detto nelle scorse settimane, purtroppo dopo cinque inverni in cui almeno una vittoria arrivava o da Simoncelli o da Blardone, questa volta non c'è stato niente da fare, per cui i motivi di soddisfazione sono tanti. Abbiamo un gruppo, una bella squadra, magari manca Cacà, diciamo così, sì, nello sci, o un altro giocatore, Leo Messi, chi volete voi, dei fenomeni attuali, però è un bel gruppo che può dare soddisfazioni davvero. Peccato per la frattura alla mano di Neroffer, che sarà un problema e un ritardo magari nella preparazione in vista della prossima stagione, però lui forse può essere la nostra punta, come ha dimostrato anche nelle discipline tecniche, di poter accogliere punti. Sì, grazie Dario, buon lavoro. Grazie mille a voi. Grazie a Dario Pupo. Abbiamo un ascoltatore, lo sentiamo subito. Carmine Salerno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, il mio intervento è sul rugby, però una chiosa sullo sci. Sì. È indubbio che da tanti anni non avevamo una squadra con tante compromesso per le Olimpiadi dell'anno prossimo, penso che sia un buon viatico. Verissimo. Sono tutti giovani, ottimo, sono belle notizie. Poi abbiamo trovato per strada questo Razzoli che oggi è andato molto forte. Infatti, è una sorpresa, ma anche Erling Rofer erano sconosciuti fino all'anno scorso, quindi io l'ho chiamato per il rugby, perché seguendo le vicissitudini brutte della nostra nazionale, mi stavo chiedendo, prima di collegarmi, io sono un arbitro che sta tornando ad arbitrare una delle base, mi stavo chiedendo se fosse il caso adesso di ripensare almeno alla nostra partecipazione a Sei Nazioni, però dalla partita di oggi mi sembra che a questo punto ce lo meritiamo. Carmine, almeno ci siamo. Ma non dipende dalla partita di oggi, sono considerazioni queste generali. Certo, la partita di oggi è ancora lì bella viva, e anzi l'Italia in vantaggio 12-10, siamo al 63esimo minuto di gioco. Quindi, insomma, non sarà la partita di oggi a dire se meritiamo o non meritiamo Sei Nazioni. Certo, dobbiamo crescere. Certo, questo è stato fin qui, tolta questa partita, un Sei Nazioni ampiamente deludente, ampiamente sottotono per i nostri. Chiaro, dovessimo battere il Galles, le considerazioni andrebbero parzialmente, tutte queste considerazioni andrebbero parzialmente riviste. Resta il fatto che comunque è un'Italia che non offre, a differenza del Galles, della stessa Scozia, che sta crescendo notevolmente, è un'Italia che non offre un grande ricambio, questo è in dubbio. Dunque, 12-10 al Flaminio, 63esimo minuto di gioco, Italia che continua a combattere benissimo contro un Galles piuttosto confuso, disordinato e un po' in ambasce in questa gara. Attenzione, azione del Galles al largo, ma i nostri placcano tutto oggi. Dunque, adesso ci fermiamo, poi naturalmente torniamo al Flaminio e su questa partita, perché sono le 17:25 e voglio rispettare i tempi e gli orari. È il momento della pallavolo, della nostra finestra sulla pallavolo, della pallavolo del momento del volley visto da Andrea Zorzi. Il segno di Zorro. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oggi parliamo dei playoff del volley che inizieranno il 29 di marzo. Prima vi racconto velocemente la situazione in classifica e poi affronteremo con due ospiti la questione dei playoff. È giusto assegnare lo scudetto con questa formula? Iniziamo dalla classifica attuale. A due giornate dalla fine, 6 sono le squadre già qualificate: Macerata, Trento, Cuneo, Perugia, Piacenza e Montichiari. Altre 3 squadre stanno lottando per gli ultimi 2 posti disponibili nella griglia dei playoff. La Sisley Treviso, che di solito lotta per le primissime posizioni in classifica, è sorprendentemente 7ª. Vibo Valentia, la vera sorpresa di questo mese, è protagonista di una straordinaria performance. 4 vittorie consecutive per 3-0, 12 punti guadagnati, 8º e ultimo posto per i playoff conquistati scalzando Verona. Proprio Verona, squadra neopromossa, un mese fa festeggiava la salvezza ottenuta con largo anticipo e sembrava sicura della partecipazione ai playoff. Ora deve lottare con il fiato corto per riconquistare ciò che sembrava scontato. Per finire, notizie dalla zona salvezza. Padova, dopo 25 anni di permanenza in A1, retrocede in A2. Forlì, dopo la sconfitta nell'ultima giornata con Vibo Valentia, sembra aver perso ogni speranza, anche se aritmeticamente la salvezza è ancora possibile. Martina Franca e Modena sono salve, ma fuori dalle prime 8. E ora torniamo al tema dei playoff come sistema per l'assegnazione dello scudetto. Ne parliamo al telefono con Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport che si occupa di volley e di calcio. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Andrea. Allora, che ne pensi? Che ne pensi? Playoff nel calcio possibili? Possibile, è un dibattito annoso, potremmo definirlo, perché da tempo se ne parla, mutuandolo anche dagli sport americani, dagli altri sport di squadra, e ci sono diversi pro e contro, e a seconda delle tesi in questi anni abbiamo visto nuovi presidenti, vecchi presidenti, vecchi e grandi nomi del calcio appoggiarli o meno. Allora, obiettivamente c'è un problema di cultura e di tradizione nel calcio. Se fate caso, nel vecchio continente non ci sono playoff nei grandi appuntamenti, nei grandi campionati. È un problema di calendari, di armonizzare il calendario del campionato con i playoff, con il calendario degli impegni internazionali. Si era parlato di playoff soprattutto per ridurre il numero delle squadre che partecipano a un campionato, potrebbe essere un'idea. Senz'altro lo spettacolo potrebbe trarne giovamento, ma molti dicono non è possibile che ci giochiamo una cosa importante, specialmente in Italia, come lo scudetto, con quando per tutto un campionato noi ci battiamo, arriviamo anche 10 punti più avanti di una squadra che nei playoff potrebbe rimettere tutti in discussione. E invece noi pallavolisti siamo disposti a accettare questa ingiustizia sportiva, perché nel volley playoff tutta la vita, giusto? Certo, ma perché in effetti lo spettacolo è garantito, perché nei playoff grosso modo arrivano le squadre migliori e in quel momento campionato nel campionato riescono a dare qualcosa in più, lo spettacolo ne trae senz'altro giovamento. Senti Marco, un'istantanea, cosa ti piace dei playoff nel volley? Allora, nei playoff del volley mi piace, intanto perché io sono sempre uno anche negli sport olimpici che sta dalla parte dei figli di un dio minore, cioè mi fa piacere che l'ottava classificata possa giocarsela con tutti i suoi mezzi, se non arrivano gli infortuni, per mettere fuori quella che ha vinto la regular season. Il fatto che in poco tempo si vedrà veramente chi è forte di testa, di gambe e di cuore, perché non hai tempo per allenare nei playoff, non hai tempo se non che per viaggiare e dormire per cercare di rimetterti in piedi, e questo mi piace, c'è tanta adrenalina. Grazie mille Marco dell'intervento, naturalmente in bocca al lupo e buon lavoro. Ciao ciao. E ora passiamo dal giornalismo alla pallavolo giocata. Fabio Vullo, palleggiatore, 8 scudetti vinti, tutti con i playoff. La domanda è: playoff sì o playoff no? Ovviamente viva i playoff, no? Visto che tutti gli scudetti li ho vinti con questa formula. No, a parte gli scherzi, Andrea, no, credo che obiettivamente un po' di ingiustizia i playoff la creino, perlomeno chi si aggiudica la regular season deve poi ripartire da zero in questa sorta di mini torneo, che però ha il grande vantaggio di fornire grande interesse ad uno sport che in un mesetto circa, questo è il tempo di durata appunto dei playoff, riesce ad avere una vetrina che durante l'anno invece non può avere. Quindi per quanto mi riguarda sono favorevole, anche se conscio e consapevole che qualche ingiustizia la possa creare. Grazie mille Fabio, noi ci rivediamo a commentare proprio i playoff che iniziano tra qualche giorno. Ciao Fabio. Grazie a te, buona giornata. E dopo l'intervista con Fabio Vullo vi leggo una piccola frase che ho trovato nei meandri del mio PC dopo tanti anni. Era il 1998. Avevo appena smesso di giocare e cominciavo a scrivere per la Gazzetta. Si parlava di playoff e io scrissi: i playoff hanno un odore, l'odore dei primi caldi e dei primi fiori. Sanno di primavera. Così come i ragazzini hanno imparato che togliere il pesante cappotto invernale significa fine della scuola, così nel volley uscire dalla palestra dopo l'allenamento e trovare ancora la luce del sole sta a significare che è arrivato il momento in cui non si possono più commettere errori. E con questo vi saluto. Ciao a tutti da Andrea Zorzi, noi ci risentiamo sabato prossimo su Radio 24 alle 17.25. Questo era Andrea Zorzi, il segno di Zorro. Intanto il Galles ci supera con una punizione di Hook e siamo 13-12 per i nostri avversari al 68esimo di gioco al Flaminio. Sono cambiate diverse cose al Flaminio, non necessariamente in positivo. Andiamoci subito da Giacomo Bagnasco. Sì, sembravano mettersi bene le cose, Carlo. L'Italia era passata in svantaggio per un calcio piazzato di Hook al 24esimo, poi al... la mezz'ora marcato aveva riportato gli azzurri sui 15-13, adesso però siamo al 32esimo e dobbiamo registrare la meta del nuovo entrato Shanklin. Un'azione del Galles, una bella azione dei tre quarti, la palla portata verso la sinistra da Hook che ha passato a Shanklin, un bel inserimento, la finta sull'estremo e la meta, lo dicevamo, sono giocatore di qualità. Shanklin di solito è il centro titolare del Galles, era entrato da 2 minuti al posto di Byrne, si era piazzato tra i centri, mentre la posizione di Byrne di estremo era stata presa da Hanson, quindi il Galles in questo momento torna in vantaggio 18-15 e ora c'è da seguire naturalmente il tentativo di trasformazione da parte di James Hook, Italia che ha continuato a giocare bene, a pressare in difesa. In questo caso si è vista la qualità e tanto di cappello a questa giocata dei gallesi, che adesso trasformano la meta con Hook e trovano il loro maggiore vantaggio, 5 punti. Quando mancano 6 minuti e mezzo al termine, Galles 20, Italia 15. Presto per le considerazioni, è un peccato davvero questa meta di Shanklin, perché dopo essere andati in svantaggio e dopo aver ribaltato di nuovo la situazione con un marcato infallibile dalla piazzola, insomma, considerato il fatto che mancavano 10 minuti alla fine, qualche pensiero non facevamo, lo facciamo tuttora, ne mancano 7, se dobbiamo rimontare 5 punti è un'Italia che comunque giustamente non smette di crederci, è un'Italia che comunque vadano le cose rimarrà in partita e a giocarsi la partita fino alla fine con il Galles, che è una superpotenza non solo a livello europeo, ricordiamo detentore del titolo, ma a livello mondiale. Teniamo monitorata naturalmente questa partita con Giacomo Bagnasco, che rimane collegato con noi, ma adesso concedetemi una digressione calcistica, perché come vi ho detto in apertura, il Liverpool ha dimostrato oggi come si fa a vincere a Old Trafford, a vincere peraltro largo di goleada 4-1, un gol italiano anche a Old Trafford, finalmente lo segna uno in maglia rossa però d'Ossena e non uno in maglia nerazzurra, gli sarebbe servito mercoledì sera. Per quanto ci riguarda ci aspetto invece una giornata ad alta tensione, dicevo, una giornata che comincia stasera, comincia anzi tra poco, tra una ventina di minuti con il Genoa in campo con il Cagliari, poi stasera c'è Juventus-Bologna. La Juventus senza Trezeguet, ieri il pubblico regolamento di conti tra Ranieri e Trezeguet e oggi vi dicevo il confronto a distanza tra Mourinho e Ancelotti, che poi sentiremo. Saluto e ringrazio Marco Ansaldi, inviato della stampa e nostro amico. Ciao Marco. Ciao, ciao, ciao. Senti, non si sono mai amati Ranieri e Trezeguet, è inutile nasconderlo. Ma probabilmente no, ma sai quanti campioni non amano il proprio allenatore in tutte le squadre, quindi direi che non è un caso particolare. Io credo che il problema vero sia un pochettino anche la capacità che ha un allenatore, il carisma che ha un allenatore, e forse Ranieri non ha questo carisma nei confronti di quelli che sono stati i campioni che pensano di essere oggi quasi proprietari della Juventus. Quindi importanti le parole della società che comunque ha difeso l'operato di Ranieri. È chiaro che Trezeguet andrà via a fine stagione, anche se nessuno l'ha detto al momento, anzi tutti hanno detto ma no, non è detto che sia un addio, Trezeguet rimane sotto contratto eccetera. La storia di Trezeguet alla Juventus credo sia finita, Marco. Ma sai, io in questi quanti sono 8 anni che Trezeguet è alla Juventus, ricordo almeno 4 situazioni in cui si diceva che Trezeguet sarebbe andato via, invece è ancora sempre qui. Quindi non escluderei poi che anche questa volta la cosa si possa ricomporre, anche perché c'è una dichiarazione pubblica di Blanc e di Secco di qualche tempo fa, i quali dicevano, e mi è stata confermata ancora nei giorni scorsi a proposito di Buffon, quando si diceva che Buffon poteva essere l'uomo da cedere per fare cassa e andare a comprare i giocatori, però hanno sempre detto pubblicamente: noi i giocatori che accettarono di scendere con noi in Serie B non li venderemo mai, tranne che non vengano loro a dirci guardate che noi ce ne vogliamo andare. Quindi questa è anche un'altra situazione da tenere conto. E poi bisogna vedere se per caso andasse via Ranieri. Questo è un altro punto all'ordine del giorno, io credo, perché aspettiamo di capire come va a finire questa storia del campionato. A proposito, la sfortuna vuole che nel giorno in cui litigano a distanza ormai, perché parlano attraverso i media, come meno male. Ieri. Meno male. Fortuna, abbiamo qualcosa da scrivere. Nel giorno in cui c'è questo regolamento di conti, davanti ai microfoni e ai taccuini, si fa male a Mauri, che sta fuori un mese e mezzo. E quindi a questo punto la Juve si trova con gli attaccanti contati. Ed è una Juve che deve stare pronta, perché io sono curioso di capire, domani sera lo capiremo, se l'Inter può avere un contraccolpo da Old Trafford e da questa fine del sogno di Champions League. Ma senti, io non, onestamente non credo che comunque la Juventus sia nelle condizioni di andare a prendere l'Inter che sta 7 punti avanti. Quindi, anzi, magari faccia attenzione a chi viene da dietro, anche se pure quelli che vengono alle spalle hanno i loro bei problemi. Quindi io penso che il discorso campionato vada ormai confinato nella lotta per il secondo posto per quanto riguarda la Juve. Ma tu non pensi che l'Inter possa avere un contraccolpo? Ma non credo. No. No, vedi, oltretutto, oltre al possibile contraccolpo dell'Inter, c'è poi la difficoltà anche della Juve di tenerne il passo, comunque, così come delle altre squadre, il Milan e così via. Quindi non mi sembra una squadra attrezzata per riuscire ad andare a recuperare 7 punti all'Inter. Certo. L'Inter dovrebbe avere veramente un crollo che al momento non riesco a immaginare. Certo. Mentre cronaca Italia 15 Galles 20, siamo al 78esimo, voglio chiudere il discorso con Marco Ansaldo andando sulle inglesi e sull'Inter in particolare. Secondo me, Marco, sono passate le inglesi semplicemente perché più forti delle nostre. Io credo che l'Inter, oltre forse si è capito, è stata un po' sovrastimata a livello europeo, e per favore non chiediamo più il pallone d'oro al momento per Ibrahimovic. perché un giocatore che segna un gol, peraltro nella partita più inutile della Champions League dell'Inter a Brema, e che poi non riesce mai ad essere determinante, perché questo è il suo tallone d'Achille, non si può chiedere il pallone d'oro attualmente per Ibrahimovic. Secondo me all'Inter, al di là di quello che scriverà Mourinho, dei suoi dossier, dei suoi reportage che consiglierà la società, la lacuna più evidente è quella della mancanza di un leader a centrocampo che manca secondo me dai tempi di Matteus. Anche se Cambiasso secondo me è un grande giocatore di centrocampo, certo. Ha la mentalità del leader, secondo me è quello che manca un po' all'Inter proprio nella costruzione del gioco, anche perché alla fine vedi che anche in Italia quando non c'è Ibrahimovic faticano a morire, in difesa ha dei problemi anche legati agli infortuni, ma comunque in assoluto ha un certo tipo di problemi, quindi io non credo che manchi proprio il leader di centrocampo, perché Cambiasso a me piace molto. Sì. Credo che manchi una idea di costruzione, tanto è vero che Mourinho partì in estate con un'idea di una certa squadra, poi ha toppato clamorosamente gli acquisti, e qui secondo me veniamo al punto dolente dei club italiani nei confronti dei club inglesi, perché al di là del fatto che dice sì, ma loro hanno i soldi e noi no, ed è tutto da dimostrare, loro i soldi spesso li spendono bene, sì. Cioè vanno a comprare delle cose. Allora pongo un dubbio che mi è stato posto da un ex grande giocatore del passato, l'altro giorno l'ho incontrato e chiacchierando, lui mi ha detto, dice, ma non pensi ad esempio che una delle ragioni per cui il calcio inglese in questo momento va meglio del calcio italiano, in un momento in cui non tutti hanno tanti soldi da spendere, sia perché loro hanno gli allenatori che fanno il mercato, cioè sono gli allenatori che sono i manager e che vengono valutati anche in base a quello che comprano. Certo. E mediamente un allenatore dovrebbe sapere se compra un giocatore buono o un giocatore scarso. Certo. Anche l'avvocato del diavolo dice, sì, ma Mourinho poi è andato a comprare Quaresma e Mancini non li fa giocare. Però, in assoluto, questo potrebbe essere una chiave. Cioè, il Manchester è andato a prendere dei giocatori, anche pagandoli molto, tipo Cristiano Ronaldo, quando lo prese giovane, lo pagò molto. Ma Ferguson, che è un tecnico, aveva visto in quel giocatore il potenziale di un fuoriclasse. Non so se Branca riuscirebbe a vederlo, insomma, tanto per essere chiaro. Sì, e poi qui i dirigenti fanno spesso da mediatori tra le esigenze e le richieste dell'allenatore, le esigenze della società, le esigenze dei procuratori, quindi le esigenze televisive di qualche società. Marco, alle televisioni. Marco, invece, in una parola, Ibrahimovic e i suoi problemi nell'essere grande giocatore in grandi partite. È un problema condiviso da moltissimi grandi giocatori. Totti, ad esempio, è stato un grande giocatore, ma non me lo ricordo nelle partite decisive come grandissimo. È una questione probabilmente di personalità o anche di fortuna, cioè imbattere le grandi partite nel momento in cui stai meglio. Ibrahimovic anche in Italia in questo momento non mi sembra che stia benissimo. Credo che sia anche un fatto di mentalità, e quindi lui evidentemente in queste partite qui o si carica troppo o vuole far troppo, e alla fine, fino adesso l'ha sempre fallito. Grazie Marco. Ok, ciao. Grazie davvero a Marco Ansaldi, inviato della Stampa. Giacomo Bagnasco, è finita Italia Galles? No, non è finita, Carlo, è l'ultima azione della partita. Steven Jones ha sbagliato un calcio e l'Italia riparte con l'azione della disperazione dai propri 22. È sicuramente l'ultima palla dell'incontro, ecco Parisse che viene pressato dai gallesi, qualche pasticcio, purtroppo c'è un in avanti e qui la partita si conclude, il Galles batte l'Italia 20-15, un'Italia che, lo abbiamo detto, è sicuramente la squadra, l'edizione azzurra più convincente, certo, di questo Sei Nazioni, una squadra che ha saputo impegnare fino all'ultimo i gallesi, il sospiro di sollievo dello staff tecnico. È davvero un peccato perché dopo quel piazzato di Marcato che ci aveva riportato in vantaggio, un pensiero ce lo facevamo, inutile nasconderlo. Mauro Bergamasco in diretta con la 7. Guardato che ho visato le poche occasioni che sono arrivate e su un'ennesima situazione abbiamo ancora perso una partita. Detto questo, è stata un'Italia diversa, un'Italia capace di stare avanti, un'Italia capace di giocare semplice, di stare avanti anche nel secondo tempo, di sbagliare poco, di difendere tanto e di fargli faticare parecchio. sono giocatori che si stanno giocando i Sei Nazioni questi. Sì, sicuramente i punti forti dove avevamo dovevamo mettere come priorità sicuramente erano le fasi di conquista come la Mischia e la Tus. Oggi sono andate abbastanza bene, abbiamo fatto qualche errore, però abbiamo recuperato dei palloni nel gioco nel campo allargato, abbiamo saputo riproporci con i nostri quarti, che oggi è stato un gioco più brillante. Merito alla mediana che ha saputo gestire abbastanza il gioco e portarci al loro campo per faticare meno. Mauro, senti, apri le orecchie e senti, questi sono tutti applausi, non sono fischi isolati, è la gente del Flaminio che vuole salutarvi, la squadra è uscita apposta. Questa è un'altra cosa, penso che la partita di oggi sia da è come un inno al nostro pubblico, a tutte le persone che stanno attorno, ai nostri familiari, ai nostri amici, perché penso che questa sia l'Italia che dobbiamo mostrare e per la quale loro devono gioire. È servito anche avere un po' di fiato sul collo, non ne avevate bisogno? No, c'è sempre bisogno, quando c'è un po' di pressione sicuramente si riesce a lavorare con più precisione e forse è quello che serviva a noi per ritrovare un pochettino quello che era il gruppo e la capacità di fare il gioco come oggi. Ti lascio al tuo gruppo, Paolo. Questo era Mauro Bergamasco in diretta con la 7 subito dopo questa sconfitta, che insomma torniamo quantomeno alle onorevoli sconfitte, alle sconfitte anche che ci lasciano la rabbia addosso. Un ultimo commento da Giacomo Bagnasco su questa vittoria del Galles al Flaminio. Guarda Carlo, in questo momento abbiamo visto i giocatori italiani rientrare in campo per salutare il pubblico, un pubblico che questa volta naturalmente si è ben guardato dal fischiare, cosa che era successa nel corso dell'ultima partita casalinga, al termine dell'ultima partita casalinga con l'Irlanda. Un'Italia che ha riconquistato il suo pubblico, e questa è una grande cosa, anche perché c'è la possibilità di confermarsi, perlomeno a livello di gioco, a livello di spirito, di sostanza, di determinazione, fra 7 giorni in casa con la Francia. Certo, una vittoria con il Galles sarebbe stata una grandissima cosa, forse la più grande sorpresa che l'Italia avrebbe fornito nel Sei Nazioni dall'inizio della sua partecipazione al torneo. Certo. Anche perché non dimentichiamo che il Galles lotta per la conquista del titolo, è in piena lotta per la conquista del titolo, anzi forse la favorita per la conquista di questo titolo. C'è Capitan Parisse sempre con la 7, lo sentiamo subito. È stata una settimana difficile con tante voci dall'esterno che cercavano di disturbare questo gruppo. Penso che oggi abbiamo giocato una bella partita. Purtroppo ancora non abbiamo riuscito a vincerla, ma penso che abbiamo giocato contro una grande squadra. Non dimentichiamo che questa squadra ha vinto l'ultimo Sei Nazioni e penso che oggi ha sofferto contro una grande Italia che le ha messo sotto pressione. Quindi penso che con queste basi possiamo continuare a lavorare e giocare anche un'altra grande partita contro la Francia. Infatti a riposare e coprire, che c'è la Francia tra 7 giorni. Mille, ciao. C'è la Francia tra 7 giorni e insomma almeno abbiamo fatto pace con il pubblico. Ieri Parisse aveva detto: chi ha voglia di fischiare vada a vedere un altro sport, stia a casa, faccia dell'altro. Almeno la pace con il pubblico è stata fatta e questo è il risultato ottenuto oggi dall'Italia, Giacomo. L'Italia sicuramente ha ottenuto questo risultato, ne poteva ottenere uno ben più clamoroso naturalmente. Pensiamo cosa sarebbe successo in Galles per una sconfitta di questo genere, che praticamente avrebbe tagliato fuori i Dragoni, che invece rimangono in corsa per il titolo. Non potranno più fare il grande slam come l'anno scorso perché hanno perso in Francia, ma all'ultima partita affronteranno l'Irlanda a Cardiff e quindi quella potrebbe essere davvero la partita decisiva. L'Irlanda intanto però se la deve vedere tra pochi minuti con la Scozia a Murrayfield, cioè Edimburgo, e quindi anche per l'Irlanda ci si può aspettare un pomeriggio duro. Sicuramente questa partita è la più bella giocata dagli azzurri finora, anche la partita direi tecnicamente più interessante, non c'è dubbio, anche per un non pubblico c'è neutrale. Non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio su quanto stai dicendo. Torneremo a parlarne domani sera verso le 18:45 quando apriremo la nostra finestra domenicale sul rugby del Sei Nazioni. Io ringrazio Giacomo Bagnasco dal Flaminio, raccogliamo questa sconfitta, ripeto, si torna all'epoca delle onorevoli sconfitte ed è un passo avanti rispetto agli arretramenti degli ultimi tempi. Ci fermiamo un istante per la sigla, subito dopo voglio farvi sentire, oltre a darvi i risultati di Serie B, un paio di voci di oggi di conferenza stampa sul calcio. Vi ricordiamo che Palla Ovale vi è stato offerto da Peroni. Illumina la tua voglia di rugby. Dunque, torniamo per chiudere, abbiamo ancora 3 minuti, giusto il tempo per darvi i risultati di B, che sono ancora parziali, siamo in chiusura di partite. Dunque Bari-Avellino 3-0 per il Bari, che dunque comanda la classifica, resta in testa, anche perché il Livorno sta pareggiando 1-1 in casa con il Cittadella, 1-1 anche tra Mantova e Sassuolo. Modena 1, Ancona 0, Rimini, Frosinone 0-0, Salernitana 2, Grosseto 0, il Pisa vince 2-0 a Treviso, il Brescia vince 2-1 a Trieste, l'Albino Leffe vince 3-0 a Vicenza. Finali naturalmente Ascoli batte Piacenza 2-0 e la vittoria larga del Parma ad Empoli 4-1 di ieri sera. Voglio farvi sentire cosa ha detto oggi Mourinho, riferendosi velatamente al suo collega rossonero Carlo Ancelotti, che nei giorni scorsi aveva commentato il passo falso del Milan in Champions League. Mourinho. Una domanda che mi hanno fatto prima che io non ho voluto rispondere. Io posso rispondere solo dicendo che un allenatore può perdere tutto meno la sua dignità professionale. Io la mia dignità professionale non la perco mai. E per persone intelligenti mezza parola è sufficiente. Io ho detto un allenatore può perdere tutto meno... Ho detto 9 parole, con 9 parole voi sapete quello che dico io. Questo era Mourinho, dunque, sul... Poi Ancelotti ha risposto e ha detto: Mourinho, per favore, non parli più di noi, ci dimentichi, ci lasci stare. Io non parlerò più dell'Inter, lui non parli del Milan perché tanto è inutile. Oggi l'allenatore dell'Inter ha parlato anche di Ibrahimovic, sentiamo cosa ha detto. Poteva segnare 2 gol a Old Trafford, se segna 2 gol a Old Trafford sarebbe performance magica, Inter qualificato. E sarebbe tutto fantastico. Una traversa, una palla in secondo palo, un tiro crociato, un lavoro importante per la squadra. Io non mi aspetto mai che un giocatore prenda la palla e da solo vince una partita. Lui ha fatto un grande lavoro per noi, è stato infortunato, ha giocato a Genoa 3 giorni prima, ha giocato a Old Trafford, ha fatto il suo lavoro. Un po' sfortunato secondo me, però io sono soddisfatto. Soddisfatto di quello che lui ha fatto. Contento lui, contenti tutti naturalmente. Domani sera c'è la Fiorentina e sarà una partita particolarmente importante perché Marco Ansaldo, l'abbiamo sentito prima, dice: no, non credo in contraccolpi particolari dell'eliminazione della Champions League. Io sono curioso di vedere quale Inter troveremo domani sera in una partita difficile contro la Fiorentina. Domani naturalmente ne parleremo, gli appuntamenti saranno quelli tradizionali, quindi ci troviamo alle 17:19, il basket dopo il GR delle 20, e torniamo naturalmente con il serale dalle 22 alle 23 per seguire da vicino Inter-Fiorentina. Adesso chiudiamo qui ringraziando Gigi Borghi per il lavoro in redazione, Giacomo Spunta in regia. Domani.